ad alta voce. Валерио Апреа legge Записки сумасшедшего, Diario di un pazzo, di Николай Васильевич Гоголь, traduzione di Tommaso Landolfi. Sophie sedeva al tavolo e cuciva non so che. Io guardavo dalla finestra perché mi piace osservare i passanti. Quando a un tratto è entrato un domestico e ha annunciato Teplov. «Passi!» ha esclamato Sophie e si è buttata ad abbracciarmi. «Ah, Maggie, Maggie, se tu sapessi chi è costui! Bruno, gentiluomo di camera, e che occhi! Neri, ardenti come fuoco! E Sophie è fuggita in camera sua!» In capo a un istante è entrato un giovane gentiluomo di camera con basette nere. È andato allo specchio, si è aggiustato i capelli e si è guardato attorno per la stanza. Io ho brontolato e mi sono seduta al mio posto. Sophie è ricomparsa presto e allegramente ha risposto al suo inchino. E io, per conto mio, facendo le viste di non accorgermi di nulla, ho continuato a guardare dalla finestra. Tuttavia ho piegato un poco la testa di fianco e ho cercato d'udire i loro discorsi. Ah, ma cher, di che cose insignificanti parlavano? Parlavano di una dama che nel bel mezzo di un ballo, invece di una certa figura, ne aveva eseguita un'altra. E anche dicevano che un nominato Bobov era molto somigliante, nel suo jabot, a una cicogna e che per miracolo non era cascato. Che una certa Lidina si figura di aver gli occhi celesti laddove ce li ha soltanto verdi e via di questo passo. Come si può paragonare, mi chiedo, questo gentiluomo di camera a Tresor? Cielo, che differenza! Prima di tutto la faccia di quel giovane è larga e liscia e coperta di basette, come se fosse avvolta in un fazzoletto nero, mentre il muso di Tresor è sottile e ha una macchia bianca sulla fronte, e la figura di Tresor non si può paragonare a quella del gentiluomo. E gli occhi, il portamento, sono tutt'altra cosa. Che differenza! Io non so, ma Cher, che cosa ci trova nel suo Teplov? Come mai ne è tanto entusiasta? Anche a me pare che qui ci sia qualcosa che non va. Non è possibile che Teplov possa averla così incantata. Vediamo appresso. Mi pare, se le piace questo gentiluomo di camera, che presto le piacerà anche, che so, quell'impiegato che sta nel gabinetto del babbo. Ah, ma Cher, se tu sapessi che sgorbio è costui, una vera tartaruga nel suo guscio. E chi è quest'impiegato? Il suo casato è stranissimo, egli non fa altro che star lì e tagliar penne. I capelli sulla sua testa appaiono proprio fieno. Il babbo lo comanda sempre in luogo dei servi. Mi sembra che questa abominevole cagnetta alluda a me. E dove ho io i capelli come fieno? Sophie non può assolutamente trattenere il riso quando lo guarda. Menti, dannato cagnuolo! Che lingua esecrabile! Come se io non sapessi che tutto questo è opera dell'invidia! Come se non sapessi di chi c'è qui lo zampino! Queste sono tutte mene del caposezione! È chiaro che quando un uomo si è votato a un odio senza quartiere fa di tutto per nuocere e non può mancare di nuocere a ogni piè sospinto. Vediamo comunque ancora quest'altra lettera, qui forse la faccenda si chiarirà da sé. Ma cher Fidel, perdonami se non t'ho scritto per tanto tempo. Ero in una divina ebbrezza. Assai bene se apposto quello scrittore che definì l'amore una seconda vita. Inoltre, qui da noi in casa ci sono grandi cambiamenti. Il gentiluomo di camera viene ora da noi ogni giorno. Sophie se n'è innamorata pazza. Il babbo è molto contento. Ho anzi sentito dire dal nostro Gregorio, il quale scopa i pavimenti e quasi sempre parla da sé, che presto ci saranno le nozze, giacché il babbo vuole assolutamente dare Sophie o a un generale o a un gentiluomo di camera, appunto, o a un colonnello dell'esercito. Al diavolo non posso leggere oltre. Sempre gentiluomini di camera o generali. Vorrei io stesso diventar generale, ma mica per ottenere la mano, eccetera. No! Vorrei essere generale solo per vedere come essi si contorcerebbero e farebbero tutte quelle varie mene di corte ed equivoci e poi dirgli: io sputo su tutte e due voi. Il diavolo mi porti anche a me, che rabbia, ho lacerato in tanti pezzetti le lettere della stupida cagnetta. 3 dicembre. Non può essere. Storia. Il matrimonio non si farà. È gentiluomo di camera e con questo. Evidentemente non è che una dignità. Non già qualcosa di visibile che si possa prendere in mano. Evidentemente se uno è gentiluomo di camera non gli si apre mica un terzo occhio in mezzo alla fronte. Evidentemente non ci ha mica il naso d'oro, ma ce l'ha come me e come tanti. Senza dubbio col naso ci fiuta e non ci mangia, ci sternuta e non ci tosse. Io già parecchie volte ho cercato di capire da che cosa possono derivare tutte queste differenze. Perché io sono consigliere titolare e a che titolo sono consigliere titolare? C'è caso che io sia un qualche conte o generale e che soltanto sembri consigliere titolare. Forse io stesso non so che diavolo sono. Quanti esempi, del resto, nella storia. Un particolare qualunque e non uno già nobile, ma così un borghese e anche solo un contadino all'improvviso si scopre che è un gran principe o un barone o quello che volete. Ora, se da un contadino ne viene fuori talvolta un affare di questo genere, che cosa non può venir fuori da uno già nobile di suo? All'improvviso, per esempio, io compaio in uniforme di generale. Una spallina sulla spalla destra, una spallina sulla spalla sinistra e un nastro turchino in mezzo al petto. Ebbene, come canterà allora la mia bella? Che dirà lo stesso suo babbo, il nostro direttore? Oh, quello è un grande ambizioso, quello è un frammassone, un autentico frammassone, sebbene faccia finta d'essere questo e quell'altro. Io ho capito subito che è un frammassone. Lui, quando dà la mano, non dà che due dita. Ma davvero io non posso essere fatto in questo medesimo istante generale, governatore o intendente o qualcosa di simile? Perché sono io consigliere titolare? Pagherei a sapere perché, per l'appunto, consigliere titolare. 5 dicembre. Oggi ho letto tutta la mattina dei giornali. Strani fatti succedono in Spagna. Io, anzi, non ci capisco bene. Scrivono che il trono è vacante e che gli alti gradi si trovano in una posizione imbarazzante per ciò che concerne la scelta del successore e ne derivano torbidi. Questo a me pare oltremodo strano. Come può il trono essere vacante? Si dice che una certa donia deve salire al trono. Non può una donia salire al trono. Assolutamente non può. Sul trono ci deve essere il re. Ma, dicono, non c'è re. Non può darsi che non ci sia re. Uno stato non può stare senza re. Il re c'è, soltanto chissà dove si trova in incognito. Egli potrebbe darsi si trova appunto là. Ma qualche ragione, o di famiglia, o minacce da parte delle potenze confinanti, come sarebbe Francia o altri paesi, lo costringe a nascondersi, ovvero ci sono ancora altri motivi. 8 dicembre. Io volevo assolutamente andare in ufficio, ma vari motivi e riflessioni mi hanno trattenuto. Ancora non posso levarmi dalla testa gli affari di Spagna. Come può essere questo che una donia diventi regina? Non lo permetteranno. E tanto per cominciare, non lo permetterà l'Inghilterra. E poi gli affari politici dell'intera Europa, l'imperatore d'Austria. Confesso che questi avvenimenti mi hanno tanto abbattuto e scosso che non c'è stato verso di far nulla per tutta la giornata. Mavra m'ha fatto notare che a tavola ero straordinariamente distratto. E invero, nella mia distrazione, ho gettato, pare, due piatti a terra dove si sono rotti. Dopo pranzo sono andato a spasso, non ne ho potuto cavare niente distruttivo. Il più del tempo me ne sono stato disteso sul letto e ho pensato agli affari di Spagna. 43 aprile del 2000. Questo è il giorno del più solenne trionfo. La Spagna ha finalmente il suo re. S'è trovato e quel re sono io. Non prima di oggi appunto l'ho saputo. Confesso che sono stato come illuminato da un lampo. Non capisco come ho potuto credere e immaginarmi d'essere consigliere titolare. Come ha potuto farsi strada nel mio cervello quest'idea da mentecatto? fatto. Ora tutto è chiaro per me. Ora vedo tutto come sul palmo della mia mano. Prima non capisco perché. Prima tutto era in qualche maniera confuso ai miei occhi. E tutto questo deriva, credo, dal fatto che la gente si immagina il cervello umano situato nella testa. Niente affatto. Esso viene sul vento delle regioni del Mar Caspio. Per prima cosa ho rivelato a Mavra chi sono io. Quando essa ha sentito che davanti a lei c'era il re di Spagna, ha battuto le mani e per poco non è morta dallo spavento. Essa, la stupida, ancora non ha mai visto un re di Spagna. Io però mi sono sforzato di calmarla dicendo che non mi sarei per nulla arrabbiato per il fatto che qualche volta m'aveva pulito male gli stivali. Quella è gentuccia, non si può con loro parlare d'argomenti elevati. Essa si è impaurita perché nutre la convinzione che tutti i re di Spagna rassomigliano a Filippo II. Ma io le ho spiegato che fra me e Filippo non c'è niente di comune. All'ufficio non ci sono andato. Il diavolo se li porti. No, compari, ora non mi incantate più. Non copierò più le vostre sudice carte. '86 marzobre, fra il giorno e la notte. Oggi è venuto il nostro usciere a dirmi d'andare in ufficio. Son più di 3 settimane ormai, dice, che non sono andato al lavoro. Io, per cavarmi una soddisfazione, sono andato in ufficio. Il caposezione credeva che l'avrei riverito e mi sarei scusato, ma io l'ho guardato con indifferenza, né troppo arrabbiato né troppo benevolo, e mi sono seduto al mio posto come non notando nessuno. Ho dato un'occhiata a tutta la minutaglia cancelleresca e mi son detto: se sapeste chi avete fra voi, Signore Iddio, che confusione sollevereste! E lo stesso caposezione principierebbe a inchinarsi fino alla cintola davanti a me, come ora fa col direttore. Mi hanno messo innanzi certe carte perché ne facessi estratto, ma io non le ho toccate neanche con la punta delle dita. In capo a qualche minuto tutti sono stati presi dall'agitazione. Dicevano che arrivava il direttore. Parecchi impiegati gli correvano incontro a gara per farsi vedere da lui. Ma io non un passo dal mio posto. Quando egli ha attraversato l'ufficio, tutti si abbottonavano in fretta il frac. Ma io neanche per idea. Ma che direttore! Che io mi levi davanti a lui? Mai! Che direttore è quello? Quello è un tappo, non un direttore, un comune tappo, un volgare tappo, niente di più di quelli con cui si otturano le bottiglie. Ma la cosa più divertente è stata quando m'hanno passato una carta da firmare. Credevano che avrei firmato giusto in calce, una specie di scrivano come avrebbe potuto altrimenti. Ma io, nel posto più importante dove firma il capo divisione, ho tracciato Ferdinando VIII. Bisognava vedere che silenzio di venerazione ha regnato allora. Ma io ho fatto appena un cenno con la mano dicendo non occorre alcun atto di sottomissione e sono uscito. Di là sono andato dritto all'appartamento del direttore. Non era in casa. Il domestico non voleva lasciarmi passare, ma io gli ho detto qualcosa che gli ha fatto cadere le braccia. Mi sono diretto senza esitazione alla toletta. Ella sedeva davanti allo specchio, è saltata in piedi e si è tirata indietro. Io tuttavia non le ho detto che sono il re di Spagna, ho detto soltanto che l'attende una felicità tale che lei non se la può neppure immaginare e che, ad onta delle macchinazioni dei nemici, noi saremo l'uno dell'altra. Non ho voluto aggiungere di più e sono uscito. Oh, creatura obliqua, la donna! Io solo adesso ho capito chi è la donna. Finora nessuno sapeva di chi essa è innamorata. Io per primo l'ho scoperto. La donna è innamorata del demonio. Sì, senza scherzi. I fisici scrivono sciocchezze che essa è così e cosà. Essa ama esclusivamente il demonio. Ecco, guardate da un palco del primo ordine, essa punta l'occhialino. Pensate forse che guardi quel tipo grasso con la stella? Niente affatto. Guarda il demonio che sta dietro le spalle di lui. Esso, ecco, s'è nascosto dietro quello in frac. Ecco, esso le fa segno di là col dito ed essa lo sposerà, lo sposerà. E tutti quegli impiegati che strisciano ovunque dicono di essere patrioti, ma ecco, è l'affitto che vogliono questi patrioti. La madre, il padre, il Dio stesso venderebbero per denaro, ambiziosi, Giuda! Tutto questo è ambizione, e ambizione perché sotto la lingua si trova una piccola vescica e dentro a questa un minuscolo vermicciuolo della grandezza di una capocchia di spillo, e di tutto ciò ha colpa un certo barbiere che sta sulla Gorciovaia. Non mi rammento il nome, ma è fin troppo risaputo che lui, insieme a una mammana, vuol diffondere per tutto il mondo il maomettanesimo, eppure dicono che già in Francia buona parte della popolazione professa la fede di Maometto. Nessun giorno del mese. Oggi non se n'ha nessuno. Sono stato in incognito sulla prospettiva. Per nessun segno si poteva vedere che sono il re di Spagna. Stimavo indegno svelarmi là davanti a tutti, giacché prima di ogni altra cosa occorre presentarsi alla corte. Sono stato soltanto fermato dal fatto che fino adesso non ho ancora il costume nazionale spagnolo. Potessi almeno procurarmi un manto, volevo ordinarlo a un sarto, ma essi sono dei veri asini. Oltre che non amano affatto il loro lavoro, si sono buttati alla speculazione e per la massima parte lastricano le strade. Ho deciso di fare un manto della mia uniforme nuova, che in tutto ho messo un paio di volte, ma perché quei cialtroni non me la rovinassero, ho deciso di far tutto da me, chiuso in camera perché nessuno veda. L'ho tagliata interamente con le forbici, giacché il taglio dovrà essere tutto in un'altra maniera. Il giorno del mese non me lo ricordo. Non c'era neppure mese. C'era il diavolo sa che cosa. Il manto è completamente pronto e cucito. Mavra ha dato un grido quando l'ho indossato. Tuttavia, ancora non mi risolvo a presentarmi a corte. Il fatto è che finora non è giunta alcuna deputazione dalla Spagna, e senza deputati non sta bene. La mia dignità non sarebbe apprezzata come si deve. Li attendo d'ora in ora. Primo, mi sorprende altamente l'indugio dei deputati. Che ragioni mai possono trattenerli? Forse la Francia, sì, quella è la più maldisposta delle potenze. Sono stato a informarmi alla posta se sono arrivati i deputati spagnoli, ma il direttore è estremamente imbecille, non sa niente. No, dice, qui non c'è nessun deputato spagnolo e se volete spedire delle lettere le avvieremo per la solita strada. Il diavolo ti porti. Che lettere? Una lettera è una cosa da nulla, le lettere le scrivono gli speciali. Madrid, 30 febbraio. Eccomi dunque in Spagna, e questo è avvenuto tanto rapidamente che non ho avuto neppure il tempo di rifiatare. Stamattina sono venuti da me i deputati spagnoli e io ho preso posto con loro in carrozza. Mi è parsa curiosa la straordinaria velocità che abbiamo tenuta. Andavamo così di volata che in mezz'ora abbiamo raggiunto la frontiera spagnola. Del resto è vero che ora per tutta Europa ci sono strade ferrate e i vapori corrono a velocità inaudite. Strana terra, la Spagna. Quando siamo entrati nella prima stanza, ho visto una quantità di persone con la testa rapata. Io però ho subito indovinato che quelli dovevano essere o grandi o soldati, giacché essi hanno l'abitudine di raparsi la testa. Oltremodo strano, poi, m'è parso il contegno del gran cancelliere, il quale m'ha condotto per la mano, m'ha spinto in una piccola stanza e ha detto: sta buono qui e se dirai che sei il re Ferdinando te ne farò passare io la voglia. Ma io, ben sapendo che questa era nient'altro che una prova, ho risposto negativamente, in seguito al che il cancelliere m'ha colpito due volte con un bastone sulle spalle e m'ha fatto tanto male che quasi gridavo. Ma mi son trattenuto riflettendo che questa è un'abitudine cavalleresca al momento dell'investitura in un'alta dignità, e infatti in Spagna conservano ancora oggi le abitudini cavalleresche. Restato solo, ho deciso ad occuparmi degli affari di Stato. Ho scoperto che la Cina e la Spagna sono il medesimo paese e che solo per ignoranza le credono due nazioni diverse. Io consiglio a tutti di tracciare a bella posta Spagna su un pezzo di carta, verrà fuori Cina. Ma mi ha molto amareggiato un avvenimento che deve aver luogo domani. Domani alle 7 si compirà uno strano fenomeno. La Terra si metterà a sedere sulla Luna. Di ciò scrive anche l'illustre chimico inglese Wellington. Confesso che io ho concepito un interno turbamento quando ho considerato la straordinaria mollezza e mancanza di consistenza della Luna. La Luna, come è noto, si fa ad Amburgo e si fa abominevolmente. Mi meraviglio come mai l'Inghilterra non ci ponga attenzione. La fa un bottaio zoppo ed è chiaro che è un incosciente. Di lune non ne capisce un'acca. La fa con la resina e in parte con olio d'oliva. Ecco perché per tutta la terra c'è un lezzo terribile da doversi tappare il naso. E perciò anche la luna stessa è una sfera così molle che uomini non ci possono vivere e ci vivono ora soltanto nasi. E ciò spiega altresì perché noi non possiamo vedere i nostri nasi, perché appunto essi si trovano tutti sulla luna. E quando io ho considerato che la terra è una sostanza pesante e può, mettendosi a sedere, ridurre in poltiglia i nostri nasi, sono stato preso da una tale inquietudine che, infilate le calze e le scarpe, mi sono precipitato nella sala del consiglio onde dare alla polizia l'ordine di non lasciar sedere la terra sulla luna. I grandi rapati di cui trovai nella sala del consiglio un'intera moltitudine erano gente molto in gamba e quando io dissi: signori, salviamo la luna perché la terra ci si vuole sedere sopra, tutti all'istante si precipitarono a compiere la mia reale volontà e molti si arrampicavano sulle pareti allo scopo di raggiungere la luna. Ma in questo mentre è entrato il gran cancelliere, vedutolo tutti sono fuggiti qua e là, io come a re si conveniva sono restato, ma il cancelliere con mia grande meraviglia m'ha colpito col bastone e m'ha ricacciato nella mia stanza. Tale è la potenza in Spagna delle consuetudini popolari. Gennaio dello stesso anno che viene dopo febbraio. Finora non posso capire che razza di paese sia questa Spagna. Le consuetudini popolari e l'etichetta di corte sono assolutamente fuori dall'ordinario. Non capisco, decisamente non capisco nulla. Oggi m'hanno rapato la testa ad onta che io gridassi con tutta la forza dei miei polmoni che non desideravo farmi monaco. Ma non posso poi ricordarmi neppure che cosa è stato di me quando principiarono a buttarmi acqua gelata sulla testa. Un tale inferno non l'avevo ancora provato. Ero quasi pronto ad andare su tutte le furie che appena hanno potuto tenermi. Non capisco assolutamente il senso di questa strana consuetudine. Stupida consuetudine, inconsulta. Mi pare incomprensibile l'insipienza dei re che ancora non l'hanno abolita. A giudicare da tutte le apparenze, mi sorge il sospetto d'esser caduto nelle mani dell'Inquisizione e che quelli che prendevo per cancelliere altri non è che il grande inquisitore in persona. Solamente non so capire come possa un re essere sottomesso all'Inquisizione. Potrebbe, è vero, essere per via della Francia e specialmente di Polignac. Oh, quell'animale di Polignac ha giurato la mia morte ed ecco mi perseguita senza posa. Ma io so bene, compare, che tu sei insufflato dall'inglese. L'inglese è un gran politicone. Esso intriga dappertutto. Già lo sanno anche i cani che quando l'Inghilterra rifiuta tabacco, la Francia sternuta. Venticinque. Oggi il grande inquisitore è entrato in camera mia, ma io, che avevo sentito i suoi passi già da lontano, mi sono nascosto sotto una seggiola. Egli, vedendo che non c'ero, ha cominciato a chiamarmi. Dapprima ha gridato: «Dove sei, bel campione?» Io zitto. tutto. Poi Aksent Ivanovich, consigliere titolare, nobiluomo, io sempre zitto. Ferdinando VIII, re di Spagna. Io volevo allora far capolino, ma poi ho pensato: no, fratello, non mi incanti, ti conosciamo, mi verserai ancora acqua fredda sulla testa. Ma lui m'ha visto e m'ha scacciato col bastone di sotto alla seggiola. Fa un male del diavolo quel dannato bastone. Del resto m'ha ricompensato di tutto la mia attuale scoperta. Ho saputo che ogni gallo ci ha la Spagna. Essa si trova sotto le sue penne. Il grande inquisitore tuttavia se n'è andato arrabbiatissimo e minacciando non so che punizione. Ma io non mi sono menomamente curato delle sue furie impotenti, ben sapendo che lui agisce come una macchina, come uno strumento dell'inglese. 1 febbraio 349. No, non ho più forza di sopportare. Dio, che cosa mi fanno? Essi mi versano sul capo acqua fredda. Essi non fanno attenzione a me, non mi vedono, non mi ascoltano. Che cosa ho fatto loro? Perché mi tormentano? Che vogliono da me, poveretto? Che cosa posso io dare a loro? Io non ho nulla, io non ho forza, non posso tollerare tutti i tormenti che mi infliggono, la mia testa brucia e tutto gira attorno a me. Salvatemi, venite a prendermi, datemi una troica di cavalli veloci come il turbine, prendi posto mio cocchiere, tintinna mio sonaglio, spiccate la corsa, cavalli, e portatemi via da questo mondo, più lontano, che non si veda più nulla, nulla. Ecco, il cielo ondeggia davanti a me, una stelluzza brilla in lontananza, ondeggia il bosco coi suoi alberi cupi e la sua luna, una nebbia azzurra si distende ai nostri piedi, una corda risuona nella nebbia, da una parte il mare, dall'altra l'Italia. Ecco, spuntano anche le isbe russe, è la mia casa quella che azzurreggia in lontananza, è mia madre quella che siede alla finestra, mammina. Salva il tuo povero figlio, lascia cadere una lagrimuccia sulla sua testina malata, guarda come lo tormentano, stringi al petto il tuo povero orfanello, per lui non c'è posto nel mondo, gli danno la caccia, mammina, abbi pietà del tuo povero fanciullino. E sapete, a proposito, che il bey d'Algeri ha una verruca proprio sotto il naso.